Oh, ma XXX, bisogna fare dei jingle, ragazzi. Stiamo cercando dei jingle, sapete, no? Quando ci sono le sigle prima dei programmi in radio. Ho quasi avuto sempre torto in tutto, e se discuto io non parlo, urlo. La ragione la vogliamo tutti, ma quando non ragioni non la sfrutti. Sai, si dice tanto la ragione agli scemi, si dice tanto ma ci si scanna intanto dal punto di vista della persona. Stima di chi ammette, riflette sui problemi, voglio vicino solo gente che trasmette. E se poi ti ci rifletti, se poi te li trasmette, e se poi ascolto cose mai dette, me le giro e te le mando firmate con tre crocette. Tu vorresti andasse tutto bene, ma tutto viene, tutto va. Tu vorresti andasse tutto bene, ma tutto viene, tutto va. Tu vorresti andasse tutto bene, ma è la realtà. Tutto viene, tutto va. Tu vorresti andasse tutto bene, ma si sa. Tutto viene, tutto va. E tutto corre e viene, e tutto corre e va. Come vorrei o come poi va in realtà, senza false generalità. Nelle casse genialità a parte, rispecchio una parte che non vuoi, che non può interessare. Te ne frega un cazzo, a me troppo, a me manda sotto. Per rap contro, anzi un auto scontro, perché ognuno qua vuole essere coinvolto. Se te ne vai magari non schiatti, se invece resti poi non te la scampi. Per quanto vado sai che dopo ritorno, per quanto detto vado rimandato quel giorno. Ed ogni giorno guarda un altro, spingo, espando, tribolando e titubando. Scrivo in random senza intitolarlo, con chi ne parlo e so che non dovrei farlo. Tu vorresti andasse tutto bene, ma tutto viene, tutto va. Tu vorresti andasse tutto bene, ma tutto viene, tutto va. Tu vorresti andasse tutto bene, ma è la realtà. Tutto viene, tutto va. Tu vorresti andasse tutto bene, ma si sa. Tutto viene, tutto va. Bisogna cercare di fare qualcosa per XXX, ragazzi. Per questo vi sto contattando tutti. Dai, porco il però non può andare sempre, Dio.